L'intervista con Salah Salah, dirigente politico dell'ANP Libano, è più che altro una chiara considerazione sulla situazione politica in Palestina negli ultimi 10 anni. Dalle sue parole esce fuori tutta la drammaticità del momento. L'isolamento politico internazionale in cui è calata la causa palestinese e la rivendicazione dei suoi diritti e principalmente il distacco definitivo per ciò che riguarda la possibilità di un ritorno al dialogo tra le due parti. Infatti, se da un lato Israele non ha mai considerato la parte palestinese quale legittimo interlocutore politico, a dimostrazione di questa la politica unilaterale che Sharon sta conducendo in questo momento, dall'altro i palestinesi non cercano più un compromesso con Israele, passando definitivamente la parola alla diplomazia delle armi. Salah evidenzia così l'importanza del metodo della guerriglia, sia palestinese e soprattutto in questo periodo quella irachena, come lotta contro l'occupazione militare, contro l'occupazione militare americana e contro l'occupazione militare israeliana e soprattutto come unica soluzione del conflitto israelo-palestinese. Stefano Minutillo Turtur, reporter associati per Amistad Radio.